Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti. È partita lunedì mattina alle 8 la procedura del nuovo decreto flussi che prevede l'ingresso in Italia di quasi 100.000, per la precisione 98.080, lavoratori stranieri. Da questa data infatti è possibile registrarsi online sul sito del Ministero dell'Interno, scaricare l'applicativo necessario per inviare la domanda per ottenere il permesso di soggiorno. Ma attenzione, questa che è in corso in questo momento è appunto la fase di registrazione. L'inoltro della richiesta vera e propria si potrà fare solo successivamente, a partire dalle ore 8 del 31 gennaio, per 52.080 lavoratori delle cosiddette nazionalità privilegiate, fra cui cittadini albanesi, algerini, egiziani, filippini, tanto per fare alcuni esempi, e di altri paesi non appartenenti all'Unione Europea che hanno accordi di cooperazione in materia migratoria con l'Italia. Il secondo appuntamento sarà poi per il 2 febbraio, quando sarà possibile inviare le domande relative a 30.000 colf e badanti, e dal 3 febbraio infine si potranno inviare le domande per tutti i restanti settori riservati ad 11.000 ingressi. Allora, tutto così semplice e lineare? È già possibile stilare un bilancio significativo sull'andamento delle registrazioni al sito? C'è anche qualche preoccupazione che è stata manifestata dai patronati, dagli uffici di assistenza, per quello che sarà l'inoltro delle domande lunedì 31 gennaio, per il possibile ingorgo che si potrà creare. Allora, come si sta attivando anche il Ministero dell'Interno per garantire che tutto avvenga regolarmente senza disordine? Stamattina parleremo di tutto questo rispondendo come sempre alle vostre domande all'800240024, oppure a quelle domande che ci volete scrivere al 349-238-6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Questa mattina con noi Francesca Padura del Sole 24 Ore. Ciao Francesca, bentornata. Buongiorno. Sole 24 Ore peraltro è già pronto con speciali sull'argomento. Il prossimo sarà proprio la guida pratica del lunedì prossimo. La guida pratica al Click Day, quindi una guida pratica che contiene appunto le spiegazioni, illustra diciamo proprio la procedura, i requisiti che i datori di lavoro devono possedere, come funziona la procedura telematica e tutti i passaggi fondamentali per le tre giornate, appunto il 31 gennaio, il 2 febbraio e il 3 febbraio. Tra l'altro vedremo magari oggi anche quali domande matureranno dai nostri ascoltatori e vedremo se è il caso di riorganizzare una puntata anche per lunedì prossimo, perché abbiamo seguito quasi tutte le vostre guide pratiche uscite negli ultimi mesi. Tra l'altro una guida pratica che ha anche un collegamento diretto con il sito del Sole 24 Ore, a cui è possibile inoltrare domande agli esperti, se non ricordo male. Esatto, cioè lunedì 24 la guida sarà in edicola, per cui appunto dopo aver consultato la guida, o per chi è già alle prese con la compilazione del modulo e quindi ha ancora una settimana di tempo poi in vista del 31 per chiarire gli ultimi dubbi, può inviare la domanda al sito all'indirizzo appunto www.clickday.il sole 24 ore, e così appunto il lunedì parteciperà al forum con gli esperti del Sole. Benissimo, allora naturalmente non c'è solo Francesca Padura questa mattina con noi, ringrazio di essere ritornata a trovarci la dottoressa Daniela Parisi, viceprefetto del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, dottoressa del Ministero dell'Interno naturalmente. Dottoressa Parisi, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, fra un po' cominceremo ad interagire anche con lei, soprattutto per capire da lunedì ad oggi cosa è successo e quanti lavoratori si sono già appunto registrati online sul sito, in quanti hanno cominciato a scaricare l'applicativo per inviare poi il 31 la domanda per ottenere il permesso di soggiorno. Intanto, prima di partire ed entrare nel vivo del tema di oggi, un'occhiata rapidissima alla borsa. Avete già sentito quali sono i temi principali di questa giornata, una giornata che oggi così assesta e consolida i rialzi di ieri che hanno portato i listini del vecchio continente sui massimi da 2 anni a questa parte, sulla scia anche dell'impegno dei ministri finanziari dell'Unione Europea a rafforzare la rete di sicurezza per i paesi in difficoltà, anche se adesso ci si rivede a marzo appunto per l'implementazione di decisioni concrete. Abbiamo Parigi in leggero ribasso, meno 0,16%, Francoforte meno 0,03%, Londra meno 0,34%, Milano invece scatta in avanti e guadagna quasi mezzo punto percentuale. Oggi la Banca Popolare di Milano che sta trainando Piazza Affari, più 5,27% per il titolo. titolo Buzzi Unicem più 3,90. Banco Popolare recupera, è in pieno svolgimento, ne abbiamo parlato ieri a Salvadanaio, l'aumento di capitale della banca più 2%. Enel ed Enel Green Power in rialzo di circa 2 punti, hanno ricevuto dei giudizi positivi da parte di due case di investimento. E poi Tenaris più 1,76, Lottomatica più 1,59%, ha confermato, appunto, ha siglato un contratto per la gestione private per la gestione della lotteria dell'Illinois. In ribasso invece abbiamo i titoli del lusso stamattina, che sono appunto in calo di circa 2 punti percentuali. In questo momento mi si è inchiodata la grafica, ma adesso la risistemiamo. Anzi, il peggior titolo adesso è Fiat, l'auto, l'SPA meno 2,21, STM meno 1,86, nonostante i conti positivi dell'olandese, della concorrente olandese ASML. Il titolo appunto cede. Luxottica meno 1,83, Bulgari meno 1,50. Euro su dollaro a 1,3474. Per il mercato è tutto. Andiamo al tema di stamattina e vi spieghiamo come funziona quest'anno il decreto flussi. Tutti pronti ai blocchi di partenza. Il 31 gennaio alle 8 di mattina scatta il primo invio delle richieste per ottenere nuovi permessi di soggiorno. Secondo quanto stabilito dal decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2010, saranno circa 100.000 i cittadini extracomunitari non stagionali che saranno ammessi in Italia. Da lunedì scorso i datori di lavoro possono scaricare online sul sito del Viminale l'applicativo per registrarsi e compilare le domande per l'ingresso dei lavoratori, che dovranno essere inviate in 3 giorni distinti. Il primo Click Day è fissato lunedì 31 gennaio e riguarda i lavoratori subordinati, cittadini di paesi che hanno accordi con l'Italia come Albania, Algeria, Bangladesh, Egitto, Filippine. Il 2 febbraio potranno partire invece le domande per i lavoratori domestici come colf, babysitter e badanti, cittadini di altri paesi che non hanno accordi con l'Italia. Gli ingressi autorizzati in questo caso sono 30.000. Il terzo Click Day, infine, è previsto per il 3 febbraio, quando potranno partire le domande per gli altri ingressi autorizzati dal decreto flussi. Lavoratori che hanno completato speciali programmi di formazione e istruzione nel paese di origine e discendenti di italiani in Argentina, Uruguay, Venezuela o Brasile. Si tratta degli ingressi di lavoratori formati all'estero, per i quali è stata riservata una quota pari a 4.000 posti, e di lavoratori subordinati o autonomi di origine italiana, genitori non o bisnonni italiani, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela o Brasile. In ogni caso, è bene affrettarsi. Chi prima arriva avrà più possibilità di successo. Un fattore quest'ultimo che ha già scatenato qualche polemica. Secondo molti, infatti, il criterio cronologico finirà per penalizzare i datori di lavoro, soprattutto famiglie, che si rivolgeranno ai patronati e alle associazioni, che a causa della mole di domande da inviare saranno più lenti rispetto ai privati. 800 24 00 24, questo è il numero verde che vi permette di intervenire in diretta. In alternativa avete il 349 238 6666 per le domande attraverso la modalità SMS oppure l'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Dottoressa Parisi, Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Viceprefetto Parisi, le chiedo subito un bilancio di quello che è successo da lunedì ad oggi e in quanti utenti hanno attivato appunto il servizio online del Ministero dell'Interno e in quanti si sono registrati per scaricare questo applicativo necessario per inviare poi nelle giornate che abbiamo indicato la domanda per ottenere il permesso di soggiorno. Sì, allora, al mezzogiorno di oggi, quindi diciamo proprio pochi minuti fa, i moduli richiesti sono stati già 23.399 e le domande pronte per l'invio sono 6.336. Domande pronte per l'invio, è importante dirlo perché questa è un po' una delle grosse novità di questo nostro sistema di quest'anno, è che queste domande il nostro server del Ministero dell'Interno le ha già acquisite, quindi in realtà quei problemi, adesso sentivo pure che dicevate la lentezza eccetera, quando ci scatteranno i 3 giorni del Click Day non verranno inviate come nel 2007 tutte le domande al nostro sistema, ma in realtà diciamo verranno solamente confermate quelle che noi abbiamo già e verrà dato un ordine, come ribadire, di presentazione, quindi, la data e l'orario preciso con cui queste domande vengono acquisite al nostro sistema. È possibile pensare, dottoressa Parisi, che quindi praticamente gli utenti che hanno già compilato correttamente la domanda e che quindi devono solamente inoltrarla a partire dalla data del click day abbiano una sorta di precedenza rispetto a tutte le altre? Non assolutamente vuol dire, no, perché calcolate che questa, la compilazione della domanda, appunto la domanda vuol dire che è pronta per l'invio, ma poi nel momento del click day tutte le domande concorreranno insieme in quella che è la causalità di internet nel posizionarsi in quell'orario preciso che è quello in cui il sistema nostro le acquisisce poi di fatto. Benissimo. Francesca Padula, allora noi ogni anno organizziamo almeno un paio di trasmissioni su questi argomenti proprio per verificare qual è la procedura per regolarizzare i lavoratori stranieri nel nostro paese, ma non è che ogni anno parliamo di decreto flussi. No, infatti bisogna chiarire, perché l'ultima volta che ne abbiamo parlato stavamo parlando di una regolarizzazione, perché nel 2009 c'è stata una regolarizzazione o sanatoria esclusivamente riservata al lavoro domestico, quindi alle colfe e alle badanti, e lì abbiamo parlato di regole specifiche e non era un click day, c'era un mese di tempo, era settembre 2009. Dal 1 settembre al 30 settembre sono arrivate con lo stesso sistema, quindi era stato comunque collaudato il sistema dell'invio telematico, sono arrivate le domande, sono state regolarizzate circa 300.000 colfe e badanti, quindi lì c'erano delle regole particolari. Qui bisogna tornare un attimo indietro, tornare al famoso click day del 2007, durante il quale arrivarono oltre 700.000 domande. C'è stato questo famoso inoltro telematico molto massiccio e molto più elevato rispetto alle aspettative, tant'è che nel 2008 c'è stata come una seconda puntata in cui si è ripescato dalle stesse graduatorie del 2007. Quindi c'è stato non un decreto flussi, ma comunque la possibilità ai datori di lavoro, per altre 100.000 quote, datori di lavoro che avevano fatto domanda nel 2007, di riconfermare l'interesse ad assumere una persona. Come nel 2007, qui si parla di assunzioni di lavoratori extracomunitari che risiedono all'estero. Questo è quello che la legge chiede, quindi non dobbiamo confonderla con la regolarizzazione. Benissimo. Allora, adesso ci dobbiamo già fermare perché è già arrivata la nostra prima pausa. Dopodiché daremo subito il via libera alle domande degli ascoltatori, che vedo che sono già parecchie. Peraltro c'è un ascoltatore che ci ha già scritto anche all'indirizzo salvadanaio @radio24.it e ci chiede rispetto appunto alle precedenti misure di cui parlavamo, a cui ha partecipato, ci racconta Angelo, per regolarizzare la colfe che aiuta in casa. Cosa succede a questo punto? Perché lui dice: la nostra pratica non è stata ancora presa in mano e quindi quando si pensa verranno evase anche le domande precedenti. E quindi raccontare anche un po' questo principio di inoltre domanda per la regolarizzazione ma mai ricevuta conferma, quindi che cosa vuol dire anche tutto questo. A tra pochissimo. Eccoci ritrovati a Salvadanaio, che questa mattina non abbiamo ancora cominciato a farlo per la verità, vorrebbe spiegarvi ai nostri ascoltatori come funziona il cosiddetto inoltro telematico delle istanze nell'ambito del decreto flussi 2010, che permetterà l'ingresso in Italia di circa 100.000 lavoratori stranieri. Si è già partiti perché c'è tutta una procedura che richiede la registrazione sul sito del Ministero dell'Interno, la compilazione della domanda che potrà essere inviata appunto in tre date distinte a seconda della tipologia di lavoratore che deve ottenere il permesso di soggiorno. Quindi la prima scadenza importante, il primo vero test con il click day, sarà il 31 gennaio. Stamattina con noi Francesca Padula del Sole 24 Ore, il viceprefetto Daniela Parisi del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno. E allora, dottoressa Parisi, riprendo appunto con lei, che ci ha fatto prima i numeri sulle registrazioni online sul sito del Ministero dell'Interno. A che punto sono, visto che questa procedura è partita lunedì scorso? È anche possibile stabilire in sostanza che tipo di tipologia di utente ha già inoltrato la sua domanda? Non è così dettagliato l'esame, il monitoraggio che avete fatto fino ad ora? Esempio che i moduli richiesti per lavoro domestico sono 19.246, lavoro subordinato 3.325. E ovviamente chiariamo che il lavoro subordinato possono presentarlo solamente i datori di lavoro per quelle nazionalità previste nell'elenco che avete già ricordato voi, cioè quelli dei paesi con cui noi abbiamo accordi diplomatici. Ecco, per quello che riguarda la procedura di registrazione, sul sito del Ministero dell'Interno sono pubblicate, magari lo ricordiamo, dottoressa, così chi ancora non si fosse avventurato lo può fare, ci sono delle slide proprio che indicano quali sono i passi da fare, e devo dire che non sono particolarmente complessi, almeno in questo momento. Forse è un po' più complesso il dispositivo che si chiama Mini Client, però niente di particolarmente, diciamo, difficile complicato. No, oltretutto c'è anche il manuale utente adesso pubblicato, quindi ancora più per semplificare le procedure. Andando sul sito del Ministero c'è un click, proprio si linka sul decreto flussi 2010, viene fatta la registrazione dell'utente, così come vengono fatte, insomma, abitualmente in ogni altra ipotesi di utilizzo del sistema informatico, dopodiché si sceglie praticamente, dopo la registrazione, il modello di domanda che è idoneo per la necessità del datore di lavoro, si compila il modello così come si è compilato nel 2007, così come l'emersione, i modelli non cambiano, quindi anche non ci sono delle novità nel contenuto dei modelli, queste compilazioni sono guidate, alla fine di ogni pagina l'utente vede se manca qualche dato e quindi è avvertito della mancanza, appunto, di qualche dato essenziale. Finita la compilazione della domanda, chiude questo modello l'utente, quindi questo è il momento importante perché è pronto a questo punto per l'invio e aspetta il giorno deciso per l'invio a seconda del lavoratore che vuol far venire. Benissimo. E in questo momento, al giorno definito, sta pronto, come dice il nostro la nostra guida, deve riattivare appunto questo mini client, preferibilmente entro le 7:30 della data stabilita a click day, quindi star pronto sul suo computer e inviare le domande. Questo mini client, senza entrare proprio nel dettaglio, ha proprio questo scopo di far pervenire a noi non le domande nella sua completezza, ma diciamo gli elementi identificativi di questa domanda, e poi dà la data, la data e l'orario preciso dell'acquisizione definitiva al nostro sistema. Dottoressa Parisi, come ha avuto modo anche di sentire appunto all'inizio, abbiamo già parzialmente anche commentato questo aspetto, c'è un po' di timore da parte delle grandi organizzazioni, appunto, che si occupano di assistenza ai datori di lavoro, ma anche agli stessi lavoratori, appunto, in questi frangenti, che dovendo fare appunto assistenza a tante persone temono di dover fare il 31 gennaio questo invio cumulativo appunto delle domande, e quindi chiaramente magari qualcuno potrà essere penalizzato rispetto a chi invece di fronte ad un computer da solo potrà appunto in maniera un po' più serena espletare a tutte le richieste del Ministero dell'Interno. Insomma, rispetto a queste perplessità, voi come vi state attrezzando? Ma guardi, noi abbiamo già dato alle associazioni la possibilità di avere più accrediti, perché voi le associazioni già hanno fatto dei protocolli con noi, quindi possono presentare anche più delle 5 domande che è consentita al singolo utente. Poi devo dire che questo sistema, diciamo, dell'acquisizione dell'online è proprio anche a vantaggio delle associazioni stesse, perché le domande vengono preparate in modo tale poi quando vengono inviate, lo ribadisco, non c'è il flusso massivo di tutte queste le domande che appesantivano un po' il sistema. E poi tranquillizzare sempre le associazioni che nel momento in cui loro fanno l'invio cumulativo, chiamiamolo così, questo invio poi comunque le domande vengono divise, e quindi ogni singola domanda ogni domanda viene trattata come singola domanda. Quindi ovviamente non è che, e si mette in concorrenza con quelle inviate dal singolo utente, quindi non è che vengono penalizzati perché presentano più domande, perché poi comunque ogni domanda è trattata come singola domanda. Allora, cominciamo a rispondere alle domande degli ascoltatori. Sì. Cominciando con Luigi dalla provincia di Lucca, che saluto. Buongiorno Luigi, così sgombriamo anche il campo un po' da qualche equivoco relativamente a questa legge. Luigi, buongiorno. La mia domanda è un po' complessa, comunque cercherò di spiegarmi per il meglio. Io intanto sono un consulente del lavoro, per cui mi trovo in difficoltà a dare una risposta a questo mio cliente. Il problema è questo, si tratta di un cittadino albanese che era in Italia già da diversi anni, probabilmente aveva anche un permesso di soggiorno, poi ha combinato qualche cosa per cui ha scontato una pena per furto, credo. La pena ha finito di scontarla una quindicina di giorni fa, e ora deve lasciare l'Italia nel giro di 15 giorni. Non so quando scadranno questi 15 giorni. La domanda è questa: ha un fratello qui che ha un'attività che lo assumerebbe, già non capisco perché non gli hanno, non è ancora valido il permesso di soggiorno che aveva in precedenza. E però arriva la domanda: ancorché questo signore dico dovrà lasciare l'Italia, posso fare la richiesta attraverso il click day per poterlo far ritornare in Italia e quindi assumerlo presso il fratello? Allora Luigi, sentiamo un po', sì, siamo partiti subito in salita con un caso piuttosto complicato, magari sento entrambe le interpretazioni. Francesca Padula, cominciamo con te. Guardi, credo che dipenda anche dal tipo che, di condanna che ha ricevuto. Comunque, allora sicuramente non, l'espulsione, aver ricevuto un'espulsione in precedenza esclude dalla possibilità di essere assunti, e comunque da quello che io credo che appunto l'assunzione non sia possibile per gli stranieri condannati, anche se con sentenza non definitiva, per reati per esempio inerenti a stupefacenti, libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, oppure per reati mi diretti. Sembra che abbia detto furto. Ecco. No, purché appunto male. Ecco, per esempio furto, contraffazione, secondo me anche appunto il commercio di prodotti falsi, la falsificazione rientrano tra i reati che escludono dalla possibilità. Dottoressa Parisi, ci può confermare sì, questa interpretazione? Confermo con la dottoressa. Adesso è da capire bene, diciamo i 15 giorni mi sembrerebbe quasi pensare che abbiano, che ha un provvedimento di immediato di espulsione, quindi o anche comunque con intimazione abbandonare autonomamente entro i 15 giorni, quindi già questo mi potrebbe far pensare che è già comunque un provvedimento di espulsione, e quindi comunque questo a prescindere dal reato è sicuramente ostativo. Ecco, se dovesse ritornare in Albania per poi poter eventualmente rientrare in un momento successivo, ma questo voglio dire non c'entra nulla con il decreto flussi, questo dovrebbe attivare la procedura di la richiesta di reingresso che viene inviata al ministro dell'interno, se no automaticamente gli stranieri che sono stati espulsi non possono benissimo rientrare. Comunque esula insomma diciamo dal frangente di cui stiamo parlando questa mattina. Laura da Milano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, ecco, la mia domanda è abbastanza semplice ed è questa: dovendo regolarizzare la posizione di una signora proveniente dalla Moldavia, attualmente già qua in Italia, e alla quale però dovrebbe poi corrispondere una professionalità di badante. Allora io non riesco a capire se il click day che riguarda questa situazione sarà il 31 di gennaio o il 2 febbraio. Allora Laura, intanto le devo dire che il Ministero dell'Interno, che in questa fase, visto che c'è il decreto flussi, venga utilizzata la parola regolarizzazione, so che non piace, perché teoricamente insomma il lavoratore dovrebbe essere all'estero, dottoressa Parisi, no? Poi sappiamo che le cose vanno in maniera diversa, ecco. Però l'avete chiarito voi bene all'inizio, parliamo di decreto flussi, non è un'emersione, quindi lo straniero deve essere all'estero. Allora però come funziona? Una prima notizia positiva per la nostra ascoltatrice è che la Moldavia, la lavoratrice, la badante moldava può essere assunta. La domanda del click day del 31 gennaio, quindi diciamo rientra tra i paesi privilegiati, riservatari che hanno accordi diplomatici. La quota della Moldavia è di 1500 cittadini, quindi diciamo c'è un piccolo contingente per cui potrà essere assunta. Certo, non è una regolarizzazione. Allora, però diciamo chiaramente che è difficile per le famiglie, così come per le imprese, assumere dei lavoratori stranieri che non si conoscono, perché di fatto la legge, la Bossi-Fini, è questo quello che chiede. Quindi teoricamente c'è questa fase conoscitiva preventiva, dopodiché praticamente... Però appunto, siccome poi non possiamo negare che le ultime stime dell'ISMU dicono che in Italia ci sono 550.000 irregolari, l'unica cosa da chiarire effettivamente è che la lavoratrice moldava per la quale la signora volesse fare domanda col click day, poi deve tornare nel suo paese di origine, ritirare il visto e tornare in Italia regolarmente, cioè uscire dall'Italia da clandestina, quindi perdere il passaporto, perché altrimenti sul passaporto è segnata la sua presenza in Italia. È una procedura complessa, rischiosa, costosa, che non possiamo negare in precedenza hanno fatto moltissimi lavoratori e lavoratrici che hanno partecipato al decreto flussi, però dobbiamo spiegare che è questa la procedura, quindi non è una regolarizzazione, non si rimane in Italia. Si deve correre il rischio, quindi se, lo si deve fare consapevolmente, sia per i datori di lavoro che di fatto autodenunciano una situazione illegale che ha dei risvolti penali, perché adesso la clandestinità è anche un reato. Per carità, chi volesse correre il rischio può farlo, però sapendo che appunto deve poi percorrere questo iter piuttosto complesso, rischioso e macchinoso di tornare all'estero e di rientrare, diciamo di farsi ripulire un attimo i documenti, perché altrimenti si intravede la anzi si ha la conferma che sia stato in Italia, e questo quindi lo fa diventare lavoratrice una clandestina, tornare in Italia con il visto e con passaporto nuovo. Suggerimenti per chi è in viaggio. Eccoci ritrovati in diretta, dottoressa Parisi, Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, per naturalmente garantire il massimo sostegno del Ministero a tutta questa procedura, avete allestito, visto, anche dei servizi di help desk per la gestione delle richieste appunto di assistenza? Certo, come tutti gli anni, allora abbiamo il singolo utente, sempre sul sito dedicato, può mandare una mail all'help desk indicando le criticità che riscontra o nella compilazione della domanda, che possono essere sia tecniche sia giuridiche, e nel più breve tempo possibile viene data risposta. Le associazioni hanno, oltre la possibilità di inviare le mail, sono dotate anche di un numero verde a cui rispondono appunto gli operatori dell'help desk, che ormai sono esperti, perché insomma sono parecchi anni ormai che utilizziamo questo servizio. Una delle informazioni utili, più utile di tutte, è che per garantire l'invio delle domande all'ora definita dal decreto flussi 2010, dottoressa Parisi, bisogna sincronizzare gli orologi. Sì, si devono sincronizzare, così come noi abbiamo messo anche nelle FAQ. Noi abbiamo già predisposto delle FAQ che stanno sempre sul sito del Ministero dell'Interno, proprio per venire incontro anche ai quesiti quelli più semplici. Il sistema è sincronizzato nostro al time server dell'istituto IEN del Galileo Ferraris di Torino, e questo ovviamente fa sì che tutti, sincronizzandosi a quell'orario, potranno poi fare il click alle 8 preciso. Benissimo. Allora, dalla Moldavia andiamo all'India. Cesare da Latina, buongiorno. Buongiorno. La mia domanda è questa. Io ovviamente sono datore di lavoro in agricoltura, ho due operai indiani. Io li sono già assunti come stagionali da diversi anni. Adesso loro sono tornati a casa, sono in India, e voglio assumermi adesso, fare la domanda come con questo decreto, approfittando appunto il decreto flussi. La domanda è questa: ma loro adesso torneranno, quindi, per assumere come stagionali, ma poi se accettano la domanda per come lavoro a tempo indeterminato, devono tornare per forza a casa un'altra volta? E poi, oppure conviene farli stare lì adesso per un attimo e no, quindi magari a parte che non qui alla Latina li rilasciano col contagocce, nulla osta. Esatto, anche perché poi c'è anche da fare effettivamente anche il criterio territoriale a stabilire. La domanda poi è questa: ma verranno assunti a tempo indeterminato, ma anche c'è sempre una scadenza, così so io. Allora, Cesare, sentiamo un po'. Dunque, intanto l'India come viene disciplinata? No, dunque, l'India è tra i paesi del primo giorno, perché è tra i paesi riservatari, però questa è una conversione di permessi di soggiorno. Uh-huh. Allora è una quota che va al terzo giorno, il 3 febbraio, a un contingente di 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale. Mi sembra che il requisito sia però che debbano aver già trascorso due periodi in Italia, quindi devono essere già stati due volte in Italia per lavoro stagionale. Se sono lì, da quello che ho capito, sono lì, conviene che stiano lì. E poi appunto dipenderà anche da quante quote verranno assegnate alla provincia di Latina. Questa volta, ed è una delle novità, la ripartizione territoriale della quota nazionale verrà fatta dopo l'invio delle domande. Perché è un momento particolare, perché appunto, come molti dicono, è un decreto flussi che è arrivato in effetti verso fine anno, un po' inatteso, era stato quasi escluso perché c'è comunque un tasso di disoccupazione molto elevato trovato. Sì, infatti aspetto che peraltro stanno richiamando anche molti ascoltatori che qualche volta sono anche un po' disturbati perché si disciplina appunto in maniera così attenta l'ingresso di lavoratori stranieri in Italia quando c'è tanta disoccupazione. Vabbè, anche se i dati del è un po' come se ci fosse c'è un doppio mercato del lavoro. Il mercato del lavoro degli stranieri è diverso da quello degli italiani. Esatto. Nel 2010 ci sono stati anche 185.000 nuovi posti di lavoro per gli stranieri. Sì, sì. Ci sono alcune zone dell'Italia, ad esempio Bolzano ha dichiarato che vuole soltanto le badanti, Trento non vuole quest'anno partecipare al riparto territoriale delle quote, quindi evidentemente ci sono delle situazioni territoriali molto particolari. A Latina dipenderà da quello che verrà assegnato da quota per. Sentiamo se il Ministero dell'Interno ha da aggiungere qualcosa rispetto a questi aspetti toccati fino ad ora. Sì. Dottoressa Parisi. Sì. Sì, allora no, volevo dire solo una cosa, che nel caso di questo signore la conversione è solo se nel caso questi due indiani fossero rimasti in Italia, allora a quel punto potevano chiedere, perché in quel caso la conversione la chiede direttamente lo straniero sempre con modalità informatiche e se è presente in Italia e già ha avuto due soggiorni come stagionale. Nel caso del signore quindi può o utilizzare il decreto flussi 2010 che abbiamo detto ha quote 1800 cittadini indiani, in questo caso l'assunzione sarà come lavoro subordinato e di solito, per rispondere anche alla sua domanda, è a tempo indeterminato con un permesso di soggiorno rilasciato per 2 anni. Altrimenti però teniamo conto che a breve verrà emanato anche il decreto stagionale per il 2011, di conseguenza se il signore, il datore di lavoro a Latina ha interesse a farlo rientrare come stagionale può anche attendere un attimo il decreto flussi stagionale dove sicuramente ci sono più quote, insomma dove non ha timore poi di vedere respinta la propria domanda. Benissimo, allora io ho 30 secondi di tempo, non riesco a sentire Angelo dalla provincia di Monza e Brianza. Angelo, abbia pazienza. O ci scriva, prendo la sua domanda, poi vediamo di risponderle. Qui avevamo una badante ucraina appunto che doveva essere disciplinata appunto nel suo rapporto di lavoro. Dottoressa Parisi, concedo lei gli ultimi 20 secondi di tempo se dobbiamo ancora ricordare qualcosa di importante che ci è sfuggito nel corso della trasmissione. No, importante è di stare, sempre diamo questi messaggi di tranquillità, nel senso che si ha tutto il tempo dagli ieri di compilare le domande, compilarla con tranquillità, abbiamo detto c'è un help desk a disposizione di tutti per chiarire i dubbi, compilata la domanda viene salvata e attenzione a stare lì pronti e diciamo dalle 7:30 per il click day. Benissimo, le parole della Previdenza. INPS, per saperne di più. Stiamo andando avanti nella nostra collaborazione con l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale che da qualche giorno a questa parte ci spiega come funziona il processo di digitalizzazione dei servizi avviato dall'Istituto a inizio mese. A partire dal 1 gennaio 2011 è previsto che alcune domande di prestazione servizio siano presentate all'INPS in via esclusiva attraverso il canale telematico collegandosi al sito www.inps.it. Utilizzando un collegamento internet, i cittadini e le aziende accederanno ai servizi dell'Istituto senza doversi recare allo sportello. L'acquisizione delle domande di prestazione servizio nel sistema informativo dell'Istituto avverrà automaticamente attraverso la procedura telematica di presentazione. Il processo di digitalizzazione delle varie domande di prestazione avverrà comunque con gradualità. È previsto infatti un periodo transitorio di 3 mesi, durante il quale saranno garantite le consuete modalità di presentazione. Grazie a Francesca Padura del Sole 24 Ore e alla dottoressa Daniela Parisi del Ministero dell'Interno per essere state con noi questa mattina. Adesso valutiamo se riorganizzare una puntata anche lunedì prossimo per fare un po' il punto della situazione sul decreto flussi. Grazie a Gaia Romani per la collaborazione in redazione, Roberto Scaltritti oggi in assistenza tecnica e Salva Danaio come sempre ritorna domani. Da Deborah Rosciani, buona giornata.